Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta cacci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta di cicirinella, compagna di cella, precisa mamma. C'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà. Chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo. Ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chi si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che è chissà caffè.